eri fatta aspettare per intere giornate. Poi un ragazzo ha bussato e mi ha dato una lettera. Guardando la busta avevo indovinato che la lettera c'era, la mia sorte segnata. Allora sono uscito con la tristezza in viso, avevo un gran dolore, credevo proprio di morire. Come chi ha un mal di mare non può farci niente, come chi cerca un sogno che non ritornerà mai. È il passo dei tuoi piedi sulla sabbia bagnata. Io mi sentivo sempre, vedevo il nostro volo, le luci del porto e le barche nel mare. Ma il nostro amore è morto, grandi stelle chiare si infrangono nel sogno e noi andiamo via tremando. Colori dell'estate, immagini di carta si bruciano nel sole, che sarà di noi due? Cercherò mai più ricordi di vacanze, collane di conchiglie, anelli di zingara. L'azzurro dei tuoi occhi, le luci del porto, la sabbia bagnata e le